questo attacco, un'esplosione ha fatto saltare un gasdotto e evidentemente qualcuno in Egitto si è ricordato anche dei fratelli palestinesi e a suo modo ha aderito alla campagna BDS, al boicottaggio a Israele. Peccato che la zona colpita è a alcune centinaia di chilometri qui dal confine della Striscia di Gaza, in una zona in cui c'è una sorta di biforcazione fra i gasdotti, uno va in Giordania, uno va in Israele, e hanno fatto saltare quello che va in Giordania. Quindi la situazione nella Striscia di Gaza è molto molto molto problematica. Sembra di essere tornati a 2 anni fa, alla vigilia del massacro di Piombo Fuso, quando Israele sigillò i valichi, non permettendo a nessuna persona di circolare, soprattutto non permettendo i fornimenti alle centrali elettriche e gli alimenti. Qui a Gaza ci sono lunghe code ai fornimenti di benzina e cominciano a scarseggiare gli alimenti. Dovete sapere che qui a Gaza la maggior parte degli alimenti di prima necessità, compresi i fornimenti per la centrale elettrica, passano dai tunnel. In questo momento i tunnel continuano a lavorare, ma evidentemente i camion che vanno a rifornire alla Rish, che dalla Rish poi arrivano al confine di Gaza, non sono in movimento, per cui qui a Gaza la situazione comincia a essere molto problematica e se dovesse continuare così per diversi giorni saremmo ad un passo dalla catastrofe umanitaria. Che la propaganda sionista facci i tunnel usati esclusivamente per contrabbandare armi, qualche anni non si sa, perché poi abbiamo visto cosa hanno potuto fare la resistenza armata palestinese durante il Piombo Fuso. I tunnel servono ad approvvigionare una popolazione di quasi 2 milioni di persone di alimenti di prima necessità e, ripeto, la centrale elettrica. Al momento abbiamo 6-7 ore di elettricità e vi assicuro, siamo con le candele di notte, non è molto romantica la cosa, pensando agli ospedali che hanno necessità di continua erogazione di elettricità, soprattutto per i macchinari, per i pazienti in stato di coma. Se mi parli della solidarietà con la rivoluzione egiziana, qui i sentimenti sono molto forti di entusiasmo, di vicinanza, di compartecipazione. Sì, ho sentito anch'io adesso a Ramallah, proprio in questo momento sono scesi sulle strade centinaia e centinaia di manifestanti in solidarietà alla rivoluzione egiziana e contro Mubarak e contro anche quello che si può dire il regime collaborazionista di Abu Mazen. Sono stati arresti nella settimana scorsa. Anche qui a Gaza c'è qualche problemuccio, perché manifestazioni spontanee in solidarietà i fratelli egiziani sono state soppresse dal governo qua di Hamas. Noi abbiamo il nostro traduttore Mohammed, è stato arrestato con un gruppo di alcuni amici durante una di queste manifestazioni spontanee. Sono andato l'altro giorno ad accompagnare, quando è stato rilasciato Mohammed, per un ulteriore interrogatorio della centrale di polizia qua di Gaza City. Ho parlato con l'ufficiale e mi ha detto che mi ha fatto intendere che in qualche modo vogliono controllare queste manifestazioni, perché temono che possano, dalla manifestazione di solidarietà all'evoluzione egiziana contro Mubarak, possano associare qualcosa contro il governo di qui. Ma questo è un po' il sentimento comune di tutti i governi della regione del mondo arabo in questo preciso momento. Settimana prossima Fatah ha chiamato una sommossa, ha chiamato la popolazione di Gaza a una sommossa contro Hamas. Dubito che qualcuno accolga questo appello, proprio vedendo a che livello di collaborazionismo sono arrivati con Israele. Se non ci fosse c'è stato proprio recentemente, come sapete, questo scandalo del Palestinian Papers pubblicati al Jazeera, in cui oltre a un collaborazionismo totale c'è anche proprio una sorta di aiuto a far fuori palestinesi dello stesso Fatah. Per cui non penso che venerdì prossimo la popolazione di Gaza e neanche i militanti di Fatah accolgino questo appello da Ramallah per una manifestazione contro il governo di Hamas, proprio perché anche non c'è nessuna connessione con quello che sta succedendo in Egitto, come potete ben vedere, come avete appena sentito da vostro amico al Cairo. Quello che sta avvenendo in Egitto è la popolazione di 80 milioni di persone che si è alzata in piedi dopo 30 anni di schiavitù per ribellarsi a un feroce dittatore senza bandiere politiche, insomma, studenti di tutte le classi sociali, sono molto marginalizzati i gruppi politici, se pensi al Baradei o anche i Fratelli Musulmani, per il momento sono molto ai margini di quello che sta accadendo in Egitto. Per quello che avverrà qui settimana prossima, venerdì, non hanno nessuna attinenza con quello che sta avvenendo in Egitto, ripeto, non sarà assolutamente sono assolutamente preso in considerazione la popolazione di Gaza, questo appello, poi proveniente proprio da Abu Mazen, dalla critica di Abu Mazen. Quindi ripeto, l'entusiasmo e l'angoscia proprio perché siamo a un passo da una crisi umanitaria forte, se tu non lavorano qui a Gaza non entrano gli alimenti, non entrano le farine, non entrano le farine animali, non entrano le farine. Questo lo dici, online, Vittorio, scusami, Vittorio, questo lo dici perché sì. Al valico, cioè al confine, diciamo così, tra Gaza e l'Egitto, ovviamente è tutto chiuso, è ancora più controllato. In questo momento al confine ci sono un grosso dispiegamento di truppe israeliane con questi droni che monitorano la zona dal cielo, c'è anche una grossa mobilitazione di truppe egiziane, la più grossa mobilitazione di truppe di soldati egiziani dal 1979, proprio si sono sentiti fra Mubarak e Netanyahu, e Netanyahu ha dato l'ok per un dispiegamento di soldati. Hamas da par suo ha chiuso il valico, per cui in questo momento Rafa è chiuso, ci sono molti palestinesi che attendevano di uscire, molti palestinesi che attendevano di entrare, sono anche diversi malati che dovevano uscire, però anche se gli unici a cui Hamas consente l'accesso nella zona sono i lavoratori dei tunnel, proprio per evitare l'importanza dei tunnel, non arrivano i camion di rifornimenti dal Cairo dalla Rish e dalla Rish al confine, per cui in questo momento la situazione a Gaza è molto molto preoccupante. Sì. Ok, niente, noi rimaniamo qui osservando dalle fonti che ci arrivano dal Medio Oriente, cercando di capire, ci ha aiutato anche questa tua lettura da Gaza. Nei prossimi giorni continueremo a mantenere questo filo con il Medio Oriente proprio per leggere la situazione. Noi ti ringraziamo tantissimo di questo intervento e insomma non ci faremo scrupoli a richiamarti prossimamente proprio per mantenere l'aggiornamento. Grazie e in bocca al lupo per la situazione. Sì. Vittorio, scusa? Sì, anche a voi, nel senso. No, per voi ci sono sempre, per cui a qualsiasi ora chiamatemi pure. Certo, no, continueremo a aggiornarci anche perché insomma questa situazione oggettivamente ci è venuto anche insomma la voglia di sentire Gaza, perché oggettivamente se succede qualcosa in Egitto i valichi vengono chiusi, i rifornimenti per Gaza sono i primi che vengono a mancare e già una situazione insomma pesante che esiste nella striscia di Gaza si aggrava ancora di più, non calcolando che immagino che anche i diversi piccoli attacchi mirati che Israele continua a fare nella striscia di Gaza continuino ad esserci. Non mi sembra che... Esattamente, guarda, proprio mezz'ora fa Ying, la nostra compagna di International Solidarity Movement, è mossa verso il nord, a Betlaia, perché un contadino è stato colpito dai cecchini mentre stava lavorando sul suo campo, per cui questi attacchi continuano, due giorni fa sono stati ennesimi bombardamenti ai tunnel, che già non entra merce, se li bombardano pure, per cui penso che Israele stia un pochino a guardare cosa avviene, perché anche qua ci potrebbe essere una miccia per una risposta forte della resistenza contro Israele nell'onda di questa foga di voglia di libertà, di voglia di democrazia, di voglia di autodeterminazione, per cui staremo a vedere che succede nei prossimi giorni. Perfetto, Vittorio, noi ti ringraziamo tantissimo e ci sentiamo anche noi nei prossimi giorni, ovviamente il nostro abbraccio va